Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insargante il traghettatore, ben trovati a Ferry Boat. A Ferrara, non edizione del premio ai progetti di bioarchitettura e a neolaureati che hanno impostato la tesi sul tema della sostenibilità e del rapporto tra edilizia e ambiente. Un premio che cresce continuamente, 155 gli iscritti, 64 nella sezione opere realizzate, più di 90 nelle tesi di laurea. Da sottolineare che le opere realizzate arrivano da 17 nazioni diverse. E a proposito di sostenibilità, domani nella sede qui da Sole 24 Ore, Nuvola Verde Day all'Auditorium. Il tema è il digitale, la sostenibilità, è uno spettacolo di teatro scientifico che intende mettere in evidenza la relazione che c'è fra il digitale e lo sviluppo sostenibile. Roberto Cingolani, direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova e advisor di Nuvola Verde che organizza la giornata. C'è una relazione forte, Roberto Cingolani, fra il digitale e la sostenibilità? Sì, buongiorno a tutti. È una reazione fortissima, intanto ci consente di fare molte cose senza muoversi, quindi considerate il risparmio di carta, di carburante, di traffico. Secondariamente riflettiamo su un aspetto essenziale. Negli ultimi 20 anni un'informazione che prima viaggiava in 2 settimane intorno al mondo adesso ci impiega pochi decimi di secondo. Questo vuol dire un processo di democratizzazione dal punto di vista sia sociale che dell'informazione, che è enorme. È chiaro, va gestito, va ben impiegato, però è ovvio che rende tutto più facile. La conoscenza si distribuisce, è più facile far arrivare notizie capillari, è più facile imparare. Credo che queste due cose insieme siano importanti per la sostenibilità. Presentatore d'eccezione domani è un vecchio amico, forse giovane amico tuo, questo robot iCub. È vero che è il robot più avanzato che c'è al mondo e che quindi è nato interamente in Italia? Ma come umanoide certamente una piattaforma di assoluto valore, sicuramente se la gioca alla pari con i 2-3 competitor giapponesi e americani. È tutto italiano, ha la capacità di imparare come i bambini, lasciatemelo dire, oltre ad essere molto intelligente è anche molto carino a differenza dei suoi competitor, quindi siamo particolarmente orgogliosi. Bene, complimenti, grazie Alberto Cingolani, a domani, l'appuntamento per grazie. Tutti e domani a Sole 24 Ore. L'ecologica è la casa a chilometro zero, fra i 10 migliori progetti per abitare sostenibile in Italia. Da giovedì prossimo e fino al 31 luglio sarà esposta al Maxi di Roma assieme ad altri ecoluoghi. E parliamo ancora di digitale, questa volta a testimonianza di quello che abbiamo appena detto con Roberto Cingolani. Claudio Lonardi è Chief Technology Officer di DVI, un'azienda che ha sviluppato, Lonardi, una piattaforma Easy World dentro la quale c'è un sistema importante di assistenza per i disabili. Che cos'è intanto Easy World? Sì, buongiorno innanzitutto. Easy World è una piattaforma che si compone sostanzialmente di un sistema di georeferenziazione molto estremamente raffinato, che è in grado di qualificare, classificare e poi rappresentare tramite un sistema geografico che può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo, quindi da personal computer, smartphone, eccetera, tutta una serie di servizi, di funzionalità che sono integrabili anche in portali già esistenti per aiutarci a programmare e trascorrere una vacanza nel migliore dei modi. C'è una specie di navigatore, giusto? Diciamo che è un qualcosa di più, nel senso che noi siamo in grado di recepire da tutte le fonti qualificate le informazioni, e controllarle, qualificarle, georiferirle e poi riprodurle in modo tale da agevolare anche le funzionalità di ricerca. Ecco, in quest'ambito, e mi sembra il motivo per cui l'abbiamo intervistata, è particolarmente rilevante Easy Life, cioè come rendere più facile la vita con queste informazioni a disabili e persone anziane, così? Esattamente, esattamente. Da cosa è nata l'idea? Diciamo che alcuni mesi fa abbiamo avviato una riflessione e anche un confronto anche con gli amici di Village for All e Roberto Vitali su come poter migliorare l'offerta turistica per le persone con disabilità. La conclusione arrivata è chiaramente può sembrare banale. La nostra società sta invecchiando, quindi ci sono sempre meno giovani, ci sono più anziani e sempre più, questa è una nota positiva, aspettativa di vita. Poi ci sono altri esempi, le intolleranze alimentari, i cardiopatici, le famiglie. È chiaro che la maggior parte di questi esempi che ho citati sono lontani dallo stereotipo del disabile come persona traumatizzata che è in carrozzella. E questo significa che ormai sono problemi che riguardano gran parte della popolazione. E quindi voi avete contesto, giustamente avete creato questo strumento di riferimento col territorio. Molto bene, grazie Claudio Leonardi, bella iniziativa. Buongiorno. È tutto per oggi da Ferrivolt, vi ricordo di cliccare nelle pagine Facebook. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia. A risentirci.